storiacce di Raffaella Calandra. È questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Francesco apre la porta santa e sotto gli occhi di mezzo mondo e di schiere di tiratori scelti inizia il primo giubileo dell'era del terrorismo globale, il giubileo della misericordia, ma pure quello di Batilix. Impossibile evitarlo sulla grande festa dei pellegrini arrivati da tutto il mondo. Qui nel cuore della cristianità si allunga l'ombra delle faide interne alla Santa Sede, della trasformazione che il pontefice sta provando a realizzare, degli ostacoli che trova e ancor di più dei buchi neri di un mondo che per definizione forse è restio ad ogni cambiamento. Lo stesso forse che ora protesta contro la pubblicazione di due libri finiti alla sbarra insieme ai due giornalisti che li hanno scritti, in un processo in cui a giudizio sembra esserci la stessa libertà di stampa. E allora dalle mura leonine parte questa puntata di Storiacce nei segreti di Batilix. So che molti di voi sono stati turbati dalle notizie circolate nei giorni scorsi a proposito di documenti riservati della Santa Sede che sono stati sottratti e pubblicati. Voglio assicurarvi che questo triste fatto non mi distoglie certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti, quindi vi ringrazio e vi chiedo di continuare a pregare per il Papa e per la Chiesa, senza lasciarvi turbare, ma andando avanti con fiducia e speranza. Francesco è determinato e l'ha detto anche pubblicamente. Lui vuole andare fino in fondo con quest'opera di rinnovamento della Santa Sede, di apertura e di pulizia, e non poteva che cominciare dalla gestione delle finanze vaticane. Il pontefice venuto dalla fine del mondo, che abita in 50 metri quadri, rifiuta i crocifissi preziosi e predica voti di povertà. Ma un cambiamento così radicale, avviato anche con la creazione della Commissione per le strutture economiche e amministrative, al centro ora proprio del processo Batilix, non poteva non aprire un incredibile vaso di Pandora, un vaso da cui sono uscite, attraverso i documenti diventati il cuore di due libri e poi del processo, le storie di cardinali residenti in Attici, dove ci si può perdere per la grandezza, le storie di investimenti opachi, di traffici oscuri, comprese le armi, e di business che molto poco avevano a che fare con la beneficenza, ancor meno con la misericordia. La pubblicazione di Via Crucis e di Avarizia è diventata allora come una luce accesa su stanze rimaste chiuse per secoli, ma sotto inchiesta però è finito chi proprio quella luce aveva acceso. E allora viene da chiedersi: il Papa riuscirà mai nella sua opera riformatrice? E ancora, questo processo diventerà un pericoloso precedente contro la libertà di stampa o invece un'occasione per un'apertura della Santa Sede anche verso una maggiore trasparenza? Di sicuro, anche se ufficialmente nessuno lo dice, il caso Batilix 2 pesa non poco su questo giubileo, concorda Emiliano Fittipaldi, uno dei quattro imputati, uno dei due giornalisti alla sbarra, come autore di Avarizia. Pesa molto, tant'è vero che lo stesso Papa Francesco ha invitato, diciamo, maggiore prudenza e tempi più lunghi, in modo tale che la sentenza di questo processo fosse fatta a giubileo ampiamente iniziato. Ma forse anche perché il Papa vuole che ci sia anche un giusto processo? C'era stata un po' l'obiezione che questi tempi così serrati impedissero un'adeguata difesa. Non c'è dubbio, ci sono state delle critiche a parte degli imputati e del sottoscritto, anche critiche molto forti da parte di giornali americani come New York Times e Washington Post. Un processo così complesso non può chiudersi in un mese, perché vuol dire che tutte le richieste della difesa sarebbero in qualche modo non state rispettate. I tempi si allungano, una sfilza di testimoni sarà sentita e il processo, che all'inizio si pensava dovesse chiudere nel giro di un mese, ora invece avrà un'altra durata, come voleva Papa Francesco. Peccato non sia previsto pubblico nei processi in Santa Sede, peccato anche che i cronisti ammessi siano solo pochi e a rotazione e solo i vaticanisti già autorizzati, peccato insomma non possa essere raccontato come ogni altro processo, perché quello di cui si parlerà sarà di rilevanza pubblica e di interesse collettivo. Si parlerà di atti segreti che raccontano dell'uso delle donazioni dei cattolici, di ricatti, di carte riservate, ma pure di baby doll, relazioni sessuali e rapporti poco chiari tra corvi e presunti tali. In mezzo a tutto questo, a rischiare pure il carcere, due giornalisti italiani e il nostro governo per ora sta a guardare. Al Premier ha mandato un SMS Gianluigi Nuzzi, autore di Via Crucis. Beh sì, in maniera un po' irrituale gli ho mandato questo SMS ricordandogli che ci sono questi due cittadini italiani, giornalisti professionisti, che sono alla sbarra per aver diffuso notizie e documenti riservati su interessi fondamentali dello Stato del Vaticano, così recita il capo di imputazione, no? Ecco Gianluigi, questo messaggio diciamo alla Premier da parte tua, questo perché non c'è stato alcun tipo di reazione, di commento, di presa di posizione né da parte del Premier né da parte dei suoi ministri, e questo anche perché in questo processo è in ballo, possiamo dire, anche la libertà di stampa. Questo sì è una cosa abbastanza kafkiana, insomma, qui ho fatto dei libri, io credo che portare a processo questo vuol dire spostare l'attenzione. Via Crucis narra delle storie che sono incredibili, insomma, di un papa che cerca di fare pulizia e che incontra invece nei gangli, cioè nelle finanze del Vaticano, incontra una casta che tutela i propri privilegi ed è pronta a tutto pur di non arretrare rispetto a quei cambiamenti tanto annunciati dal Santo Padre. Io ho chiesto in Vaticano notizie se non sono mai stati celebrati dei processi rispetto ai reati che questa commissione d'inchiesta ha trovato e ha evidenziato nei documenti che riproduco. E in Vaticano mi hanno detto che nulla, che loro non pubblicizzano i processi. E beh, insomma, il nostro ha una grande attenzione, magari anche giusto così, ma vorrei che la stessa attenzione fosse riservata per le magagne che raccontiamo. Istituita nel 2013, la Commissione per le strutture economiche e amministrative della Santa Sede ha cominciato a lavorare e negli atti raccolti sono venute fuori storie di investimenti in Sud America, di vendita di armi, di case con stanze più grandi di un campo di calcio. Sono stati Monsignor Lucio Angel Valeio Balda, segretario della COSEA, e Francesca Ciauchi, membro di questa commissione, i famigerati corvi. Con questa accusa di sicuro sono stati arrestati dalle guardie svizzere. Due arresti in Vaticano. Francesca Immacolata Ciocchi e Monsignor Lucio Angel Valeio Balda per la Gendarmeria Vaticana sono i due corvi che da alcuni mesi sottraggono e divulgano notizie e documenti riservati sulla Santa Sede. No, non sono al corvo. Se con la parola corvo intendiamo chi materialmente ha fornito documentazione riservata di Santa Sede affinché questi due libri che vedo qui sul tavolo potessero... Eccoli qua, Avarizia di Emiliano Fittipaldi, Via Crucis di Gianluigi Nuzzi. Prego. Potessero vedere la luce, non sono io il corvo. No, non addita nome come il corvo, perché c'è un'ammissione del Monsignor Balda che le carte le ha date lui. Io vengo additata come una strega. Parla di processo alle streghe Francesca Ciauchi, la misteriosa PR, metà calabrese, metà marocchina, entrata in ruoli e stanze super segrete e super delicate, su segnalazione di Monsignor Balda o del pontefice. E perché il Monsignore avrebbe dovuto segnalarla? Perché c'era una relazione tra loro, come qualcuno sospetta? L'attenzione verso questi aspetti, se vogliamo anche più originosi della questione, è di sicuro molto alta, ma se guardiamo bene, ben maggiore è in realtà la dimensione di quello che queste due inchieste giornalistiche finite sotto accusa raccontano, Via Crucis di Nuzzi e Avarizia di Emiliano Fittipaldi. Io scrivo per esempio che, a parte diciamo le case, non soltanto del povero Bertone, che capo espiatorio, ne scrivo anch'io ovviamente, perché si è fatto diciamo rifare la casa e ristrutturare la casa con i soldi dei bambini malati destinati ai bambini balati della Fondazione del Bambino Gesù, ma tantissimi cardinali hanno case che partono dai 300, 400 fino a 700, 800 metri quadrati e tutti ancora sono ancora in queste case. Francesco, Papa Francesco è l'unico tra tutti loro che vive in 50 metri quadrati. Il Vaticano controlla a Roma un patrimonio di 5.000 appartamenti che valgono 4 miliardi di euro e spesso questi appartamenti appartamenti vengono dati in affitto a prezzi molto bassi, non ai poveri o ai profughi, non ne ho trovato nemmeno uno dentro, ma agli amici, ai politici, ai raccomandati, ai funzionari di Stato. E ho scoperto per esempio che all'interno dello IOR, negli ultimi 2 anni lo IOR ha incassato 100 milioni di euro di utile, e c'è un fondo di beneficenza per le missioni estere che dovrebbe dare questi soldi per, diciamo, i pastori di tutto il mondo. Ebbene, su 100 milioni hanno dato solo 17.000 euro. Ci sono storie che riguardano direttamente l'ospedale Bambin Gesù, che ha dei conti nascosti, segreti, allo IOR che valgono 500 milioni di euro. Questi soldi alla fine vengono utilizzati per comprare azioni di società petrolifere come la Esso, che hanno inquinato e ucciso, oppure come la Dow Chemical. Insomma, ci sono tantissime storie. Storie che dimostrano anche come le riforme, pure avviate all'interno del Vaticano, non sono fino ad ora sufficienti. Tanto resta da fare, un tema molto serio questo, come il processo che è in corso, che però non potrà essere raccontato, a nostro parere, con la necessaria trasparenza. Non c'è pubblico, come dicevamo, e solo alcuni giornalisti a turno possono entrare e documentare. Questo processo sarà allora un pericoloso precedente o un'occasione di rinnovamento davvero per la Santa Sede? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Sembra che un monsignore alla fine sia normale che scopi. Beh, in teoria no, però insomma. Ma tu ti sei trombata balda. Guarda, se io avessi voluto tradire mio marito, certamente non l'avrei fatto con un prete a cui non piacciono le donne. Quindi assolutamente no. Quindi tra lei e Balda erano solo rapporti professionali? Rapporti di amicizia, era una persona che mi faceva pena. Si discute di questo: voyeurismo, vendette, ricatti e segreti dietro le storie di Vatileaks. In realtà, come dicevamo nella prima parte, il tema è molto serio, perché in ballo c'è la gestione delle finanze del Vaticano, dell'8 per mille dei cattolici, delle donazioni dei credenti, dell'interesse di 1,5 miliardi di cattolici verso quello che succede dentro la Santa Sede. E quindi forse lo sguardo dal baby doll di Francesca Ciauchi va allargato a quello che succede dentro le mura, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, e a quello che succede dentro l'aula del processo, dove pure due giornalisti italiani sono alla sbarra. E se ci fosse una condanna? Una prospettiva a cui pensa Gianluigi Nuzzi, autore di Via Crucis. Sarò in appello e in Cassazione, ricorrerò in tutti i gradi di giudizio in Vaticano. Dopodiché vediamo se loro chiederanno l'estradizione al mio paese. Io sono un cittadino italiano, dove c'è l'articolo 21 che dice che c'è libertà di espressione, di pensiero, c'è una legge a tutela della libertà di stampa. Sono andato a questo processo perché non credo che, al di là del caso del singolo, i giornalisti non devono essere intimiditi. Domani che un giornalista trova dei documenti sul Vaticano, cosa fa? Non li pubblica perché ha paura di finire il processo? Ecco, ma appunto, quello, che cosa rappresenta questo processo? Questo è un avvertimento, un monito, è un monito anche ai giornalisti. Se avessimo scritto delle cose sbagliate è giusto fare ammenda pubblica, ma io mi chiedo, un giornalista un domani cosa avrà? Avrà timore e tremore perché si finisce il processo per delle cose vere? Ma insomma, questo dal Watergate in poi nessun paese al mondo è stato mai discusso. Io posso capire che ci sia una rabbia per chi ha eventualmente, ovviamente, diffuso i documenti, ma quello è un problema loro interno. Potrebbe rappresentare una sorta di precedente, appunto, rispetto a quello che potrebbe esserci anche in futuro. Ma da cronista non hai un po' l'impressione che comunque non permettano la necessaria trasparenza? Il clima che si respira da dentro è abbastanza surreale, insomma, nel rispetto di una corte che sicuramente sono dei bravissimi professori, delle persone di diritto, perché poi sono cittadini italiani, sono magistrati non scelti con un concorso, ma nominati. Vai lì e non puoi sederti vicino al tuo avvocato, non puoi interagire durante l'udienza, stare su sta panchetta, che sono sino tutto vestito di nero. Mio figlio mi ha chiesto se era un soldato ninja, io gli ho spiegato che invece era l'ufficiale giudiziario. Via Crucis racconta la casta in Vaticano, che è una casta che c'è sempre stata e che si oppone oggi alle riforme di Papa Francesco. La Via Crucis è quella che sta facendo il Papa e che io francamente mi eviterei anche di fare. Ma la notizia, per dirla con un celebre aforisma di Lord Northcliffe, è quella cosa che qualcuno da qualche parte non vuole sia pubblicata, tutto il resto invece è pubblicità. E su questa lunghezza d'onda anche Emiliano Fittipaldi, autore di Avarizia. Il punto è che io sono lì perché ho fatto solo il mio mestiere, nel senso c'è un articolo del loro codice penale, il 116 bis, che dice che io sono lì a processo perché ho divulgato notizie riservate, che è esattamente quello che un giornalista deve fare. E lì non c'è la libertà di stampa, perché in qualsiasi altro paese, diciamo, democratico io non sarei mai finito a processo. Adesso vedremo se, diciamo, la difesa verrà maggiormente rispettata, come io mi auguro e come io credo, ma comunque io il processo lo devo fare. Tu che aspettative hai rispetto al verdetto? Io ho fatto solo il mio lavoro e questo è fuori discussione. Regola di carattere, diciamo, penale, civile e deontologica, ci tengo a sottolinearlo, perché loro in qualche modo nel capo di imputazione mi accusano di aver fatto pressioni, no, sul Monsignore per avere delle carte. Sottolineo che il Monsignore, che non devo più proteggere come fonte perché lui stesso ha detto che mi ha dato alcuni documenti, me ne ha dati diciamo talmente pochi, parlo del mio libro, che costituiscono non più di 5 pagine sulle 220, il resto sono fonti, molte fonti che non sono state fortunatamente per loro individuate dal Vaticano. Che sensazione hai avuto appunto entrando in quest'aula? Beh, è molto particolare, innanzitutto è un'aula molto spoglia, molto diversa rispetto a quello che avevo immaginato, devi lasciare il cellulare all'esterno, questo non soltanto noi ma anche tutti i pochi giornalisti che possono entrare. In realtà il processo è pubblico, è aperto, ma per i cittadini della Città del Vaticano. Codice penale su cui loro si fanno riferimento risale al 1913, nel codice non l'hanno mai cambiato, e soprattutto all'interno del codice non c'è alcun riferimento alla libertà di espressione, alla libertà di stampa, al diritto di cronaca. Dunque la difesa rispetto a una norma così dura come quella voluta da Papa Francesco nel 2013, ossia quella di vietare con forza la divulgazione di notizie riservate, e la difesa è molto complicata, perché io effettivamente questa divulgazione c'è stata, ma fa parte del mio mestiere, del mio lavoro, che non viene in qualche modo garantito e tutelato all'interno del Vaticano. E l'ordine dei giornalisti cosa fa mentre due cronisti italiani sono alla sbarra in Vaticano? C'è stata una presa di posizione a difesa dei colleghi, ma non vuol parlare di processo alla libertà di stampa né di precedenti, ma piuttosto richiama all'essenza del giornalismo il presidente dell'ordine Enzo Jacopino. Mi limito soltanto a invitare a riflettere sul fatto che i giornalisti non sono i custodi dei segreti, i giornalisti debbono procurarsi le notizie che sono di interesse dei cittadini, verificarle e fornirle loro. In base alla curiosa idea che alcuni hanno che i giornalisti debbono investigare sulla titolarità di chi dà loro le notizie a poterle distribuire, francamente insomma non mi sento di poterla accettare questa idea, perché non ci sarebbe cronaca giudiziaria in questo paese, non ci sarebbero notizie di inchieste in questo paese se valesse questa idea. Non so se si tratta di un processo alla libertà di stampa, so che è una cosa che probabilmente il Vaticano, per quello che riguarda le presunte responsabilità dei giornalisti, avrebbe fatto meglio a risparmiarci. Ma in qualità di ordine dei giornalisti avete pensato anche a qualche forma di ufficiale presa di posizione o di sensibilizzazione del governo italiano rispetto a questo processo? Se quelle notizie sono vere, ripeto, in questo paese non ci sarebbe cronaca giudiziaria se i giornalisti fossero costretti ad indagare sulla titolarità. Non pensi che possa essere anche un po' un pericoloso precedente un processo di questo tipo, cioè che in qualche modo distoglie eventuali altri giornalisti in futuro da occuparsi di notizie riguardanti il Vaticano? Scusatemi, io non voglio dire che non accetto che si riduca tutto al Vaticano. Ogni santo giorno che Dio c'è in terra c'è un collega come i due che fa il suo dovere di giornalista e che si trova sottoposto a procedimenti che in molti casi sono tentativi di intimidazione. Non voglio ipotizzare che di questo si tratti nel caso specifico, ma i giornalisti debbono dare le notizie. E forse dovremmo ricordarlo e ricordarcelo anche di più il senso del nostro mestiere, fatto di notizie e anche di qualcuno che non vuole che queste notizie siano pubblicate. Certo, quando si parla di Vaticano le cose diventano sempre più complicate, ma così era forse anche nell'antichità, dove esisteva pure un equivalente del Vaticano. Linea allora alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. C'è una città santa che richiama pellegrini da ogni parte del mondo. Un luogo di culto da cui parla, ascoltata con devozione, una grande autorità spirituale. C'è un clero che si occupa di religione, ma anche di cose più concrete, perché il luogo sacro ha anche un immenso patrimonio, frutto delle offerte dei fedeli. E succede spesso che intorno all'amministrazione di queste ricchezze si scatenino conflitti. Stiamo parlando naturalmente del Tempio di Apollo a Delfi, il più grande santuario della Grecia antica, dove risuonava la voce della Pizia, la profetessa ispirata ad Apollo, famosa per i suoi oracoli. Un santuario che era anche una potenza politica ed economica. Tutti i greci portavano offerte al Tempio, le città vi consacravano monumenti e statue. Come il famoso Auriga di Delfi, dono del tiranno di Gela in Sicilia, o come la colonna serpentiforme donata per celebrare il trionfo dei greci sui persiani. L'imperatore Costantino se la rubò per abbellire la sua nuova capitale Costantinopoli e oggi potete ancora vedere quello che ne resta in una piazza di Istanbul. Ogni tanto si levavano voci critiche sull'avidità dei sacerdoti di Delfi, anche la consultazione dell'oracolo era pagamento, oppure si lamentava che il Tempio accettasse offerte di ben note prostitute, tempi lontani e molto diversi dai nostri, quelli dell'oracolo di Apollo, ma vada comunque un pensiero in questi giorni di feste cristiane alle nostre care e vecchie divinità pagane. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce il sito è radio24.it. Se avete storie che volete segnalarci scriveteci a storiacce@radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.